Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Una manciata di secondi alle 17.10, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, questa sera al timone di Focus Economia. È una giornata dal punto di vista economico-finanziario estremamente ricca di notizie da commentare insieme a voi. Avremo una raffica di ospiti per spiegarci quelli che sono stati i principali argomenti del giorno. Ovviamente ritorneremo sul grande tema che ha condizionato la borsa, Piazza Affari in particolare, negli ultimi giorni, il tema del risico bancario. Faremo un punto di giornata a due giorni dal lancio dell'offerta non ostile ma neanche concordata, come si continua a definire appunto da parte dei vertici di Intesa San Paolo, su UbiBanca. Oggi si è riunito il patto di sindacato di UbiBanca e il verdetto emerso al termine della riunione è inappellabile. L'offerta è non solo ostile ma anche inaccettabile, hanno detto i soci più importanti riuniti in questo patto. Commenteremo appunto questa nuova giornata più tardi con Luca Davi del Sole 24 Ore. Oggi c'è stata anche l'intervista rilasciata a Bloomberg TV da parte di Messina, il numero uno di Intesa San Paolo, che ha detto: vabbè, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, d'altronde è un'operazione di mercato anche in termini di comunicazione, che sono stati quelli visti in maniera un po' più problematica anche dall'esterno, se vogliamo. Abbiamo fatto così perché è così che andava fatto, visto che si tratta semplicemente di un'operazione di mercato e come tale l'abbiamo gestita. Quindi farà ancora sicuramente molto discutere questo tema, peraltro in uno scenario in cui si è riaperta anche ripartita altra speculazione su altre possibili integrazioni del futuro. Oggi infatti il mercato ha ripuntato di nuovo su BPerBank e Banco BPM, che sono stati gli unici bancari a crescere in questa seduta, che invece per Milano si sta archiviando con un ribasso dello 0,9%, ma avremo il tempo di arrivarci. Le altre borse sono piatte, si muovono intorno alla parità, leggermente negative adesso Parigi e Francoforte. Wall Street è negativa, ma ad inizio seduta in realtà non sapeva bene che strada intraprendere, con l'obiettivo un po' di consolidare anche i nuovi record che sono stati toccati ieri sera. Ci sono stati dei dati economici tutti abbastanza positivi, quindi il mercato americano continua ad essere sostenuto anche da fondamentali che continuano a convincere, ma dopo i nuovi record e oggi magari un pochino di presa di profitto ci sta anche, il calo comunque è attestato in appena lo 0,2% sugli indici del mercato americano. Quali sono gli altri temi che approfondiremo questa sera? Vi faremo un resoconto delle principali misure contenute all'interno del decreto mille proroghe, che ha avuto il via libera con fiducia da parte della Camera ieri. Adesso la palla passa al Senato, da cui dovrebbe esserci un via libera ovviamente in toto. È un provvedimento che era stato sfornato da Palazzo Chigi a dicembre, contemplava poco più che 40 articoli, esce fuori dalla discussione e da uno scontro politico durissimo appunto dalla Camera, con un provvedimento di 78 articoli. C'è dentro di tutto, come nella natura naturalmente di un provvedimento di questo tipo. Ci faremo fare più tardi una carrellata dal nostro Gianni Trovati sulle misure che hanno un impatto più rilevante nell'ambito appunto economico italiano, fra noi cittadini, fra noi contribuenti. Insomma, ci sono tante curiosità anche previste da questa misura. Andremo poi a Bruxelles, perché a Bruxelles è partito invece il confronto, che pure si preannuncia piuttosto difficile, fra i paesi, appunto i 27 paesi dell'Unione Europea riuniti per tentare di trovare un'intesa sul prossimo periodo finanziario 2021-2027. L'esito della discussione resta molto incerto e sapete che qua pure il bilancio dei 27 è diventato piuttosto problematico con l'uscita del Regno Unito, per cui la coperta anche per accontentare tutti i paesi si fa sempre più stretta, e quindi vedremo un po' che partita di giro ci sarà tra le risorse previste per i prossimi 7 anni. Altri due temi che affronteremo questa sera, parleremo di una iniziativa importante che è arrivata oggi dal Ministero del Lavoro, che ha approvato il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato. Un piano triennale appunto che parte da quest'anno e perdura fino al 2020, un piano che è frutto della collaborazione di tante istituzioni impegnate a livello centrale, regionale e locale contro questo deprecabile fenomeno del quale parliamo da molto tempo, contro il quale è sempre sembrato appunto non potersi fare più di tanto, ma adesso passa la palla appunto all'azione del governo centrale, che mette in piedi tutta una serie di misure che vi elencheremo appunto più tardi, ce ne sono anche di significative. Il piano contempla quelle che sono state definite 10 azioni prioritarie, dovrebbe essere attivato un sistema informativo per il mercato del lavoro agricolo, dovrebbe essere attivata una rete del lavoro agricolo di qualità, una serie di certificazione dei prodotti, verranno attivate campagne di comunicazione per far conoscere a tutti quello che succede in certe aree del nostro territorio, dovrebbero essere attivate più iniziative di vigilanza e contrasto, e poi c'è una parte molto importante che vi spiegheremo nel dettaglio. Si vuole fare qualcosa di più, e cioè reinserire dal punto di vista socio-lavorativo anche le vittime di questo fenomeno, oltre a garantire loro protezione e prima assistenza, ma ne parleremo diffusamente più tardi. Se volete commentare con noi i fatti del giorno lo potete fare come sempre alle 349-238-6666, potete inviarci dei messaggi con la tradizionale modalità SMS, ma so che adesso gettonate particolarmente il WhatsApp, potete mandarci anche dei messaggi vocali che non possiamo mandare in onda, ma li ascoltiamo volentieri. Io intanto vi preannuncio che domani ovviamente Sebastiano Barisoni ritorna, avrà anche una sorpresa, non ve la voglio dire adesso, vi tengo un po' in caldo, e intanto andiamo alle notizie in breve della giornata. Sì, la regia ride, lo so che questo concetto del vi tengo in caldo non significa niente, vi tengo un po' in sospeso, insomma voglio mantenere un po' questo alone di mistero intorno a questo grande annuncio che vi daremo nel corso della trasmissione, ma comincio ad anticiparvi che domani per la non invidiabile classifica che conduce ogni venerdì Sebastiano Barisoni ci sarà anche un ospite che lo accompagnerà nell'elencazione dei fatti e misfatti appunto del nostro paese. Ma andiamo con calma alle notizie invece di quest'oggi. Partiamo come sempre con le materie prime, l'oro torna a crescere ancora. Siamo a 1.618 dollari l'oncia da quando è partita anche la crisi del coronavirus. Il tradizionale bene rifugio ha ripreso quota, in questi giorni appunto stiamo continuando a vedere acquisti su questa materia prima. Cresce anche il petrolio, poco fa abbiamo visto che ha accelerato a 54,56 dollari al barile il WTI, il greggio di riferimento americano, dopo il dato sulle scorte americane che ha mostrato un rialzo la scorsa settimana, scorte americane di greggio cresciute ma meno delle attese la scorsa settimana secondo quanto ha pubblicato il Dipartimento dell'energia, e questo è bastato appunto a ridare ulteriore colpo di acceleratore appunto alle quotazioni internazionali di greggio. Oggi sono arrivati anche dei dati dagli Stati Uniti, il superindice economico che a gennaio è salito dello 0,8% sopra le attese, è andato bene anche il dato sui sussidi settimanali di disoccupazione, l'indice Philadelphia Fed, e oggi a movimentare Wall Street c'è stato anche un'iniziativa di merger and acquisition, fusioni e acquisizioni che ogni tanto ritornano sul mercato americano. Oggi Morgan Stanley ha acquisito una società che si chiama E-Trade, è un fornitore di servizi ai broker online, è un'operazione che è stata anche piuttosto costosa, infatti Morgan Stanley non andava particolarmente bene sul mercato americano, mentre la società che è stata invece acquisita andava decisamente bene, ma ancora una volta abbiamo visto forte vivacità appunto sul settore tecnologico americano, che comunque adesso è negativo a Wall Street. Il Nasdaq cede lo 0,17%, il Nasdaq composito, dopo i nuovi record di ieri. Allora, coronavirus, le notizie dal punto di vista finanziario che contornano questo tema dell'epidemia, le abbiamo già raccontate più volte. Sapete che la Banca Centrale Cinese ha deciso di muoversi a sostegno del credito nel mezzo delle pressioni dell'epidemia appunto del coronavirus, e ha varato una sforbiciata ai cosiddetti loan prime rate, uno dei tassi preferenziali offerti dalle banche centrali ai migliori clienti e un riferimento sui tassi applicati anche ad altri prestiti. Una misura misura che vuole aiutare la liquidità del sistema bancario sul fronte dei finanziamenti alle imprese in questo momento in cui in quest'area l'economia è completamente paralizzata, anche se qualche impianto sta riprendendo, ma ancora con molta lentezza. In ogni caso, questa iniziativa stamattina ha aiutato molto le borse asiatiche e le cinesi, che sono cresciute di quasi il 2%. Le aziende della provincia dell'Hubei, il focolaio del coronavirus, non riprenderanno invece le proprie attività prima del 10 marzo, lo hanno annunciato le autorità locali, precisando che la decisione è parte integrante degli sforzi per consolidare l'effetto positivo del controllo dell'epidemia, entrato adesso in una fase cruciale della provincia cinese. Le autorità hanno fatto sapere che il provvedimento non si applica alle aziende necessarie al contenimento del virus, ai servizi pubblici e alle attività che soddisfano le esigenze quotidiane della popolazione. Torniamo negli Stati Uniti, un'altra notizia che riguarda un'azienda che conoscono molto bene tutte le signore in ascolto, forse lo conoscono molto bene questo brand anche gli uomini appassionati di biancheria intima, insomma gli angeli di Victoria's Secret, e chi non ha mai visto una sfilata di queste splendide modelle. Allora, L Brands cede il controllo di Victoria's Secret alla società di private equity Sycamore Partners. La separazione del marchio di lingerie dal gruppo appunto è arrivata con questa comunicazione. All'interno del gruppo L Brands rimarrà solo Bath & Body Works. Sycamore Partners acquista dunque il 55% di Victoria's Secret, che passa così di mano per 525 milioni di dollari. Andrei a qualche notizia sull'Italia. Più soddisfazione per la vita nel complesso migliora nel 2000 e la soddisfazione, scusate, per la vita nel complesso migliora nel 2019, confermando un trend positivo iniziato 3 anni prima. C'è la rilevazione dell'Istat che ci dice tutto questo, che precisa anche che dopo la stasi del 2017-2018 torna a salire la quota di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per la propria situazione economica, raggiungendo il 56,5%. La quota di persone che dichiarano una elevata soddisfazione per la loro vita è invece del 43,2%. Oltre alla metà degli under 25 vede rosa, nonostante tutto quello che diciamo di questi ragazzi che sono molto penalizzati dal mercato del lavoro, che non avranno mai una pensione. Bene, loro ci danno anche questa lezione e dicono in ogni caso di vedere la loro condizione non così penalizzata come la vediamo noi più grandi, più adulti. Rispetto al 2018, la crescita del livello di soddisfazione per la vita degli under 25 nel complesso è stata più elevata della media fra i giovani di 18 e 24 anni, per l'appunto. Quelli molto o abbastanza contenti passano dal 48,3 al 51,3%. Vista l'obsolescenza del sistema estimativo catastale, bisogna per prima cosa creare un cassetto fiscale degli immobili per semplificare e allineare le banche dati e poi procedere ad una riforma del catasto che porti ad una maggiore equità, mantenendo invariato il prelievo fiscale complessivo. Questo è l'indirizzo espresso dalla Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, che ha votato alla unanimità il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva per la riforma della fiscalità immobiliare. Io, se posso commentare, questa me la voglio vedere veramente tutta, perché da quando, dal 2004, conduco il mattino una trasmissione sui soldi degli italiani a Radio 24, si parla di riforma del catasto. Io ancora nel 2020 la devo vedere, per cui si aprono quale scommesse per capire quando questo provvedimento arriverà. Intanto è stato approvato anche il primo piano nazionale contro il caporalato, il piano triennale, non vi dico altro adesso perché affronteremo questo tema più tardi. Qualche dato che arriva invece oggi dall'INPS: a dicembre sono calati i contratti stabili di lavoro con una variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, assunzioni più trasformazioni meno le cessazioni, negativa per 75.024 contratti. Nel 2019 la variazione è invece positiva per 365.216 contratti stabili, un valore più che doppio rispetto al 2018. È il dato che ha diffuso oggi l'osservatorio INPS sul precariato sui datori di lavoro privati. Le assunzioni totali nel 2019 sono state 7.170.000 a fronte di 7 milioni e qualcosa di cessazioni, appunto, con un saldo positivo di 161.000. 31.000 unità. Il dossier autostrade, peraltro un po' ne parleremo tra poco anche perché c'è qualche cosa su questo argomento all'interno, come noto, del decreto mille proroghe. Per il dossier autostrade il governo sta conducendo la procedura di revoca ed è interesse della controparte fare una proposta transattiva che il governo avrebbe il dovere di valutare. Sentiamo cosa ha detto oggi su questo punto il premier Giuseppe Conte, era a Bruxelles. Il governo sta conducendo questa procedura di revoca e interesse della controparte di autostrade eventualmente fare una proposta transattiva che il governo avrebbe addirittura il dovere di valutare, perché è chiaro che prima che si concluda e si metta la parola fine su questa procedura, se dovesse arrivare una proposta transattiva da parte a cura di Autostrade per l'Italia, il governo, lo dico pubblicamente, avrà il dovere di valutarla, perché se fosse una proposta che, tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, offre la possibilità di tutelare l'interesse pubblico e perseguire l'interesse pubblico ancora più efficacemente che la revoca stessa, abbiamo il dovere di considerarla, ma solo in quel caso. Non si dica che il governo vuole transigere o sta facendo una proposta contro proposta. Ancora un paio di notizie prima di passare al primo approfondimento di oggi, le notizie del giorno che riguardano Air Italy. Ci sono le dichiarazioni del ministro delle infrastrutture, la ministra Paola De Micheli, che parlando con i lavoratori della compagnia aerea messa in liquidazione, oggi sono stati in presidio davanti al ministero. La De Micheli ha detto: ce la metterò tutta per risolvere questa situazione. Ha promesso che si prenderà cura dei lavoratori che hanno accolto il messaggio, fanno sapere le agenzie, con applausi e il suono delle vuvuzelas, secondo quanto appunto si apprende da fonti del ministero. Abbiamo avuto conferma che la proprietà Air Italy non ha intenzione di modificare la procedura di liquidazione, ha precisato ancora la De Micheli ai sindacati. Questo non significa però che il governo non abbia provato ad immaginare alternativa al loro no. Il governo si è impegnato a prevedere una misura di sostegno al reddito dei lavoratori della società derivante dall'articolo 44 del decreto Genova, che avrà bisogno di un passaggio però parlamentare con un decreto. Noi abbiamo ritenuto intanto, ha aggiunto la De Micheli, che tecnicamente il governo e i liquidatori possano addivenire ad una concorde strategia dei tempi per non penalizzare i lavoratori e valorizzare al massimo l'intervento del governo di sostegno al reddito appunto dei lavoratori stessi. Il governo è disponibile poi a valutare ogni ipotesi di soluzione industriale per la compagnia, anche con l'apporto eventualmente del sostegno delle regioni più coinvolte, Sardegna e Lombardia. Intanto la licenza per volare resterà ad Air Italy, che conferma i voli fino al 16 aprile. La ministra Paola De Micheli prorogherà poi la continuità facendo subentrare all'Italia dopo questa data. Anche questo è un punto che è emerso dal tavolo al Ministero dei Trasporti e che sono notizie appunto che sono state date da fonti sindacali. C'è un piano per i passeggeri che illustreremo alla stampa per dare garanzie a chi ha già comprato biglietti. Allora, di notizie in breve ne avevamo altre, ma ne abbiamo già date tantissime. Direi di partire con il primo approfondimento di questa sera. Molti ascoltatori ovviamente hanno colto la mia vena maliziosa sul tema della riforma del catasto e ovviamente state commentando in tanti quello che ho detto. Molto divertente il commento dell'ascoltatore Marco da Ferrara, credo, perché ci scrive spesso anche il mattino a due di denari. È nata prima la riforma del catasto, il ponte sullo stretto? Bella domanda, è nato prima l'uovo o la gallina insieme alla riforma del catasto? Vabbè, non so se è un tema che appassiona anche il nostro Gianni Trovati, che salutiamo. Gianni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il mille proroghe ha avuto il via libera dalla Camera dopo uno scontro politico che è stato molto importante, che ha accompagnato appunto il percorso, quindi più che accidentato, di questo provvedimento, il cosiddetto omnibus, da mille proroghe è diventato omnibus perché uscito da Palazzo Chigi a fine dicembre con 43 articoli, la Camera ha partorito invece un provvedimento con 78 articoli. Adesso il Senato dovrebbe dare il via libera. Quale punto possiamo fare rispetto a tutto ciò, Gianni? Ci sono tanti provvedimenti che riguardano l'economia italiana, che riguardano anche tante questioni di piccolo impatto, nel senso di novità per noi contribuenti, per i cittadini. Qual è, insomma, il tema più rilevante che emerge da questo accidentato percorso che ci consegna finalmente questo provvedimento? Ma il tema più rilevante è sicuramente ormai l'impossibilità di seguire il processo legislativo italiano in una maniera ordinata, perché appunto il milleproroghe è stato il veicolo sul quale imbarcare di tutto, dai finanziamenti a un monastero in provincia di Benevento alla norma che facilita la revoca delle concessioni ad Autostrade. Possiamo chiamarlo un po' una norma parallela alla manovra di bilancio, tutto quello che non può entrare lì dentro per ovvie ragioni, perché poi con Bruxelles devi litigare, in qualche maniera lo fai uno switch, no? Come si potrebbe dire in ambito finanziario, lo porti di là, è così? Sì, è così, anche se teoricamente molte di queste norme non potrebbero entrare nemmeno qui, perché si tratta di un decreto che appunto deve contenere solo norme urgenti e soprattutto dovrebbero essere norme collegate tra loro da un filo logico che qui invece è impossibile identificare. Comunque il punto fondamentale è che la norma voluta dal governo, in particolar modo dai 5 Stelle, per cercare di blindare i conti pubblici dai possibili effetti di contenzioso della eventuale ma probabile revoca delle concessioni ad Autostrade, è sopravvissuta al passaggio parlamentare, è stata confermata alla Camera, sarà ratificata dal Senato e quindi dà al governo, diciamo così, un'arma, una leva in più nel negoziato con Autostrade, che sembra ormai avviato verso appunto la revoca delle concessioni. L'altro punto importante è il rifinanziamento della cassa integrazione straordinaria, sì, per cercare di dare un tampone, diciamo così, alle molte crisi industriali che sono presenti da nord a sud del paese, e il nuovo stop alle concessioni di congelazione nel mare, che rappresentano un'altra battaglia, diciamo, classica, in particolar modo del Movimento 5 Stelle. Da segnalare anche che in tutto questo gran caos di norme che sono entrate, anche micro norme, alcune delle quali inutili da ricordare, o comunque norme molto settoriali, ci sono anche norme importanti che non sono entrate, a partire dalla mini proroga delle detrazioni fiscali pagate con Gianni, puoi sistemarti un pochino la bocca, metterla a favore del, diciamo, del microfono. Temo del telefono. Ecco, certo, esatto, perché in modo, esatto, sì, ti sentivamo, me lo permette. Ti sentivamo un pochino ovattato, invece noi vogliamo metterci bene, inciderci nel cervello come sulla pietra, appunto, tutte queste novità con le quali ci dovremo confrontare come cittadini e non solo prossimamente. Le, come dire, questioni di maggior impatto invece fra i cittadini, come dicevo. Noi abbiamo tantissimo parlato del via all'RC autofamiliare, che comunque sul finale è stato un pochino corretto questo provvedimento, che poi tra l'altro parte ma non parte, perché chiaramente l'ANIA deve adeguarsi, l'IVAS, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo pure deve dire la sua, per cui anche qua per molti provvedimenti c'è poi lo step successivo dei decreti attuativi, no? Quindi quali punti partono, come dire, per così dire, a metà? Parte a metà appunto l'estensione, diciamo, in chiave familiare della polizza RC Auto, che come dire, rappresenta una nuova forma di incentivazione, ovviamente a favore degli automobilisti che negli ultimi 5 anni non abbiano causato incidenti, non abbiano causato sinistri. Con l'ultima versione della norma il beneficio scatta anche quando si rinnovano le polizze già esistenti. Va detto che nella versione finale della norma c'è anche un super malus, cioè insieme all'incentivo per chi non ha un incidente c'è una penalità prevista per chi ha un incidente di cui viene riconosciuto responsabile in chiave maggioritaria quando il danno è superiore a 15.000 euro, e lì scatta un forte incremento dei premi assicurativi. Ricordiamo un altro tema molto importante, viene rivisto ancora una volta, tanto per cambiare, ma non per i piccoli consumatori, non per i cittadini, ma solo per diciamo le imprese, se non ricordo male, il calendario di uscita dal mercato tutelato dell'energia, Gianni. Questo è un tema. Esatto, è un'uscita in due tempi. Le piccole e medie imprese usciranno nel 2021, mentre per le micro aziende e per le utenze domestiche rimane confermata la data di scadenza del 2022. Mm. Il bonus verde, poi anche quel tema lì è interessante per chi ci ascolta. Il bonus verde è stato ripescato dal milleproroghe, non era stato invece ripescato dalla finanziaria, dalla legge di bilancio. E mentre tra le sconti fiscali che dovevano, sperava che fossero ripescati dal milleproroghe, non è entrata la cedolare secca per chi affitta negozi, cioè il fatto di poter assoggettare non all'IRPEF ma a una tassa piatta del 20% le entrate d'affitto di negozi, c'era fino all'anno scorso. Non c'è più da quest'anno, quindi il carico fiscale per i proprietari dei negozi torna a crescere, perché il reddito prodotto dall'affitto torna a essere assoggettato alle ipoteche. Il milleproroghe riapre alle assunzioni nelle province e nelle città metropolitane. Sì, erano bloccate dalla finanziaria del 2015, quella che aveva seguito la riforma del Rio che doveva, diciamo, preludere alla abolizione definitiva delle province con il referendum costituzionale del 2016. Il referendum è andato come è andato, le province sono rimaste quindi nel limbo per un po' di anni, per quattro anni, un limbo che era caratterizzato anche dal blocco assoluto delle assunzioni, perché appunto questi enti andavano svuotati, ma visto che questi enti ci sono, esistono e hanno dei compiti, viene ripristinata la possibilità di effettuare assunzioni nelle province e nelle città metropolitane, che sono le province, diciamo, dove c'è una grande città. Un'ultima cosa, perché questa è pure una tematica interessante, non so, anzi per la verità ce ne sarebbero due, non so che cosa scegliere, se i medici in corsia fino a 70 anni o nessun rinvio ad aprile per l'obbligo di ricorso ai pagamenti tracciabili che danno diritto alla detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi. Qual è che ti appassiona di più? Secondo me la seconda. Beh, sì, perché è stata una promessa, diciamo così, più volte rilanciata, fatta filtrare anche da ambienti governativi. Ricordiamo, nella legge di bilancio, una lotta al denaro contante passa anche dal fatto che una serie di detrazioni possano essere fruite solo se la spesa è fatta con pagamenti tracciabili, tipicamente le carte di credito, i bancomat e così via. Si era parlato di una mini proroga, perché anche lo statuto del contribuente prevede un tempo minimo in cui appunto il contribuente medesimo possa adattarsi alle nuove regole. La proroga non è arrivata per le classiche ragioni di gettito, nel senso che alla misura, alla stretta contro il pagamento, è attribuito, almeno in linea teorica, un aumento di gettito prodotto da quella che si chiama la lotta all'evasione. Quindi i numeri di finanza pubblica non hanno permesso di fare questa mini moratoria, con tanti saluti, gli ennesimi, allo statuto del contribuente, esatto, che sappiamo è la norma più violata in Italia dopo alcuni tipi di velocità. Niente, potrei andare avanti a interrogarti per tutti i 78 articoli appunto del provvedimento, ma non ci sembra il caso. Per tutti gli appassionati anche un po' depravati del settore, sicuramente può essere utile il super primo piano elaborato stamattina dal Sole 24 Ore, che ci dà un grande dettaglio su tutte le misure contemplate. Adesso si va per concludere al Senato, ma molto velocemente, perché entro 10 giorni tutto il pacchetto deve essere convertito in legge, altrimenti scade, no Gianni? Esatto, tutta la battaglia politica ha accompagnato il passaggio alla Camera, che è stato molto lento perché c'è stata questa lunga discussione soprattutto sulla norma relativa ad autostrade. La norma non è cambiata, quindi la discussione è stata sterile, come a volte capita nel nostro Paese. L'unica conseguenza è che i senatori sono per l'ennesima volta relegati al ruolo di notai, nel senso che devono approvare quello che arriva dalla Camera, ammesso che riescano a capirlo, non per loro deficit cognitivi, ma perché il testo è sostanzialmente illeggibile, e devono approvarlo appunto in tutta fretta, senza modifiche, perché il tempo per un eventuale terzo passaggio alla Camera, che sarebbe imposto da qualsiasi micro emendamento approvato al Senato, non c'è. Gianni, grazie per essere stato con noi, buona serata. Ci fermiamo, abbiamo sul finale un capitombolo per Piazza Affari, perché perde un punto e mezzo con un'accelerazione proprio rapidissima negli ultimi minuti di contrattazioni. Vi racconteremo le ragioni di questo ribasso. Tra le colpe ritroviamo proprio quelle da attribuire al settore bancario. C'è uno scivolone di Unicredit meno 3 punti percentuali, perché sul mercato sta cominciando a circolare l'indiscrezione secondo la quale il CEO Jean-Pierre Mustier sarebbe in corsa tra gli individuati per la corsa alla carica di CEO amministratore delegato del gruppo bancario HSBC. Chissà se è vero, tra poco abbiamo Luca Davi, lo chiederemo direttamente a lui. Focus Economia. Allora, riprendiamo subito, perché ho fatto già molto tardi con la prima parte della trasmissione. Saluto e ringrazio per essere con noi Stefania Arcudi, Radio Cuore del Sole 24 ore. Stefania, buonasera. Buonasera a voi. Capitombolo sul finale, dicevo, per la borsa non è andata particolarmente nel corso di tutta la giornata, ma proprio negli ultimi minuti mette a segno Piazza Affari un meno 1,56%. Io ho un pochino dato la colpa a Unicredit, perché hanno cominciato a circolare sul mercato queste indiscrezioni secondo cui sarebbe in uscita Musti e pronto a prendere il posto in una altra grande banca internazionale. In realtà sicuramente spinge al ribasso anche Wall Street. Allora, come la commentiamo questa ultima fase della seduta? Sì, infatti, come dicevi tu, è peggiorata particolarmente proprio nelle ultime battute. Milano perdeva attorno al mezzo punto percentuale, poco più, ha chiuso in ribasso dell'1,56%. Sicuramente ha pesato il cattivo andamento delle banche. Unicredit in particolare, come ricordavi, ha accelerato al ribasso proprio nel finale, arrivando ha chiuso quasi in ribasso del 3%, e questo ha pesato particolarmente. Sono circolate indiscrezioni, appunto, come citavi tu, sul possibile passaggio di Mustier al gruppo bancario HSBC. Questo, se e quando fosse confermato, solleverebbe dubbi soprattutto sull'esecuzione del piano industriale. È stato presentato due mesi fa, e un'uscita dell'amministratore delegato, insomma, solleva preoccupazioni, insomma, tra gli analisti, che si chiedono chi poi metterà in piedi piano industriale. Settore bancario in fermento, peraltro fra un po' ne parleremo con Luca Davi, quindi guarda Stefania, ti chiedo di lasciare fuori tutti i movimenti del settore bancario registrati quest'oggi, quelli che riguardano i diretti interessati al risico rimesso in moto due giorni fa. Andrei ad affrontare altri settori, per esempio certo. Il petrolifero, con il petrolio che sta risalendo in queste ore negli Stati Uniti, come si sono comportati? Sì, i petroliferi sono andati bene, la migliore infatti è stata Tenaris, che ha guadagnato il 3,7%, peraltro Tenaris ha dato oggi i conti, nel quarto trimestre è stato debole, l'outlook prudente, ma comunque i numeri di utili e ricavi sono stati superiori alle previsioni, il dividendo annunciato invece in linea con le previsioni. Bene anche Saipem, che ha guadagnato l'1,11%, incide il rialzo del petrolio, che è arrivato a guadagnare anche l'1,5% per le scadenze del WTI e del Brent ad aprile. Si attenuano i timori sul coronavirus, l'allarme resta comunque alto, ma il numero di contagi sembra essersi stabilizzato. La banca centrale cinese, il governo di Pechino hanno annunciato misure di sostegno per l'economia, per far fronte alle possibili ricadute del coronavirus, per cui questo ha limitato, diciamo così, i timori sul fronte della domanda di greggio. Ricordiamo che la Cina è appunto uno dei principali consumatori. Esatto. Di Asori nel peggior titolo, meno 3 punti insieme a Recordati, nel comparto farmaceutico meno 2,75, brutta giornata anche per Atlantia, da stamattina era in assoluto il peggior titolo, poi sul finale si fa superare da altri, ma comunque archivia con un meno 2,7%. Sì, infatti Atlantia è stata appunto per tutta la giornata protagonista in negativo, in questo caso incide l'approvazione alla Camera del decreto milleproroghe, che rende più vicina, insomma, una possibile revoca delle concessioni. Atlantia era arrivata a perdere anche più del 3%, poi insomma ha limitato un po' i ribassi dopo che il Presidente del Consiglio Conte ha detto che se dovesse arrivare una proposta transattiva da ASPI, il governo avrà il dovere di prenderla in considerazione e valutarla, quindi ferma restando la posizione dura del governo. Quindi questo ha dato un minimo di sollievo nel finale al titolo. Grazie a Stefania Arcudi per essere stata con noi. Velocemente la pausa, il traffico, ma torniamo subito dopo. Focus Economia. I don't want to speak with investors of UBI, specifically investors of UBI, because this is a market transaction, so I'm referring to the public, and so I don't want to enter into discussion with single investors of UBI. I'm talking with my investors, and probably there could be a combination of investors between Intesa San Paolo and UBI. But my point on this transaction is that it's a completely market-oriented transaction. If investors Insomma, Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo, vuole mettere la parola fine a tutte le polemiche che hanno riguardato un po' il suo comportamento, il suo galateo istituzionale utilizzato nei confronti della banca che vuole conquistare. In qualche modo ha detto, insomma, ho fatto quello che ho fatto perché io devo rispondere solamente ai miei investitori di quello che faccio, non agli investitori di UBI. Pertanto è un'operazione totalmente di mercato e così dovevo comportarmi. Luca, Davi, quanto ancora parleremo di questa vicenda? Mi sa per molte settimane. Settimane per non dire mesi, esatto, infatti si prospetta lunga sicuramente. Allora, oggi intanto è arrivato il verdetto dei soci del patto di sindacato di UbiBanca, che hanno detto non solo l'offerta che ci è stata presentata è ostile, ma per noi è proprio inaccettabile, irricevibile. Sì, ci si attendeva una risposta forse un pochettino più interlocutoria, come quella che ieri aveva dato l'amministratore parzialmente delegato, insomma, quantomeno forse, come dire, senza essere più drastico. Invece i grandi soci di UBI hanno deciso di essere tranchant in questo senso. Non c'è nessuna possibilità di accettarla così com'è fatta oggi. E probabilmente ci sta, nella logica delle cose, non c'è nessuna volontà di accogliere un'offerta che almeno agli occhi degli azionisti storici, o meglio di alcuni degli azionisti storici, le due grandi fondazioni Cuneo e Monti di Lombardia e 4-5 grandi famiglie bergamasche e i Gussali Beretta, tra cui Bomba 6, sì. Diciamo che non c'è alcuna volontà di accettare l'offerta così come è stata prospettata, offerta che, ricordiamolo, prevede un premio di circa il 28% rispetto a quelli che erano i prezzi medi ponderati fino a venerdì scorso di UBI, e che invece Messina ha detto essere quella rimane, non c'è nessuna possibilità che venga cambiata. Che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane? Beh, Messina, in qualche modo da uomo di mercato quale che si è sempre mostrato essere, e che certamente ha mostrato anche di essere, creando valore ovviamente per questa banca, probabilmente vuole parlare al mondo degli istituzionali, dei grandi fondi internazionali. Sta ovviamente andando in questo senso la direzione intrapresa dalla banca. E a questi grandi investitori, che rappresentano sicuramente più della metà dell'azionariato di UBI, potrebbe fare gola ovviamente aderire a un'offerta che sicuramente premia, perché premia in termini di dividendo, di prospettive, di redditività. C'è un'altra parte invece che comunque esiste nell'azionariato di UBI, al momento diciamo esemplificata, rappresentata in maniera più sostanziale dal patto di questi azionisti che vale il 18%, che potrebbe cercare di trovare altre adesioni. Questi azionisti hanno contato tanto fino ad oggi in UBI, non vogliono perdere la presa, probabilmente vogliono fare leva anche su una banca che forse teme, anche giustamente in parte, di perdere una certa autonomia. Dall'altra parte Intesa ovviamente getta messaggi assolutamente di pace, vuole sotterrare eventuali asce di guerra. Grosspietro, presidente Intesa, ha detto chiaramente che vuole mantenere ed essere, come è del resto per molti aspetti, una banca dei territori, perché quella è l'origine, sì, di fondo di Intesa. Quindi ci sarà è da mettere in conto un braccio di ferro molto, esatto, prolungato, che si giocherà ovviamente sul raggiungimento dell'eventuale soglia che è fissata al momento al 50% più 1. C'è da dire una cosa: oggi il mercato ha dato in qualche modo una risposta. Il prezzo di UBI non si è mosso. No, è sceso un po' sul finale, sul 2%, ma proprio perché poi è sceso un po' tutto per le ragioni che dicevamo. È sceso un po' tutto, quindi questo significa che il mercato non crede al momento a qualcosa che sia diverso dall'adesione, se non totalitario, comunque certo, dall'efficacia della OPS di Intesa Subi. E qua stiamo oggi. Esatto, in questa intervista che abbiamo sentito poco fa, rilasciata da Carlo Messina a Bloomberg TV, peraltro lui rivendica proprio il fatto di essere stati primi in Europa a muoversi in quel processo di consolidamento che le autorità richiedono in questa fase. Ci manca pochissimo, Luca. Io in realtà poi questa vicenda qua la torneremo a commentare nei prossimi giorni. Ti voglio chiedere dell'indiscrezione su Mustier. Esce da Unicredit, oggi il mercato è sembrato abbastanza preoccupato da questa circostanza. Lui è stato ovviamente chiamato in causa in queste ore, ma voi siete disposti a riaprire voi stessi come protagonisti un'operazione di risico? Vi sentite chiamati in causa in qualche modo? Ha già detto di no lui, e escluso qualsiasi ipotesi. Va ad HSBC? Un'indiscrezione delle ultime ore, diciamo che fa un po' il paio con un'altra indiscrezione uscita nei giorni scorsi, che lo vedeva tra i possibili candidati a diventare il nuovo CEO di Sogen, quindi un gran ritorno alla sua patria d'origine. In questo caso non è da escludere che possa essere anche vero, come nello stile della casa. Unicredit non ha commentato, come sempre fa in questi casi, non è da escludere questa cosa. Diciamo che nello stesso tempo Unicredit e Mustier è impegnata pancia terra nella realizzazione di un piano al 2023. Un cambio del genere sarebbe sicuramente un grande terremoto, ovviamente, un bel trauma, per una banca che in questo momento sembra orientata sulla realizzazione di un piano. Lo vedremo sicuramente comunque nei prossimi mesi. Insomma, ogni tanto Mustier ci sorprende, non ultima la sua iniziativa di voler applicare tassi negativi ai conti correnti dei clienti. Quindi attenzione a dove va, perché potrebbe portare in dote qualche brutta sorpresa. Grazie Luca, buona serata. Grazie a voi, grazie. Giornale Radio, torniamo subito dopo. Sono Giuseppe Pasini. Partecipare a Con significa non solo sviluppare il business di filiera, ma anche entrare in un grande contesto di contaminazione culturale sui temi più attuali, fra cui la ricerca di un pianeta sostenibile e di una vera economia circolare. Connext è a Milano il 27 e 28 febbraio. Scopri di più su connext.confindustria.it. Silvia. Sì? Questo è un momento eccezionale. Già. In poltrone sofà, eccezionale svuota tutto. Ultimi divani e poltrone a partire da 99 euro in pronta consegna. Termina domenica 23 febbraio. Vieni a fare come San Tommaso. Poltrone sofà, autentica qualità. Concorrenti sleali? Axerta. Dal 1963, investigazioni a tutela di aziende e istituzioni. 800-800-007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovi paraurti sportivi, nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo doppio scarico cromato, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? SUV o Sport? Non una delle due, ma due in una. Scopri la nuova Fiat 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500 X da 14.900 euro oltre oneri finanziari con finanziamento, anziché 16.400 euro. TAN 6,45, TAEG 8,67, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiat.it. Fino al 22 febbraio, appuntamento a Verona con la 12ª edizione di Progetto Fuoco, la mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna. Caminetti, stufe, cucine, barbecue, caldaie e grandi impianti. Un'occasione per fare il punto sui vari sistemi di riscaldamento a biomassa. Radio 24 sarà presente fino al 22 febbraio a Progetto Fuoco, alla Fiera di Verona, con programmi in diretta. Tutte le info su radio24.it. Focus Economia. Ci ritrovate in diretta ancora, buonasera da Deborah Rosciani. Ma che sta succedendo sulle banche, tra le banche italiane in questi giorni? Abbiamo già ampiamente raccontato le novità di giornata dell'affare Intesa su UBI, con il netto no dei soci del patto di sindacato, appunto riuniti in UBI Banca, che oggi hanno definito non solo ostile ma totalmente irricevibile, inaccettabile l'offerta di Intesa San Paolo. Abbiamo le ultime notizie, poi abbiamo commentato l'indiscrezione che sta circolando secondo la quale Jean-Pierre Mustier, numero uno di Unicredit, sarebbe pronto a traslocare ad HSBC, e poco fa abbiamo appreso che l'attuale numero uno, l'attuale amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi, Marco Morelli, ha comunicato ai membri del consiglio di amministrazione della banca e ai membri del comitato di direzione della banca di aver informato il Ministero dell'Economia della sua indisponibilità al rinnovo dell'incarico in scadenza all'Assemblea del 6 aprile. E questa è l'altra novità di giornata. La Fondazione Carige chiede 141 milioni di euro di danni agli ex vertici e infine apprendiamo da poco che si riuniranno lunedì prossimo i due restanti patti di sindacato di UbiBanca, il sindacato azionisti Ubi, a cui aderiscono i soci storici bresciani, inclusa la famiglia dell'ex presidente d'Intesa Giovanni Bazzoli, e il cosiddetto patto dei mille, che raccoglie una piccola rappresentanza di soci bergamaschi. Sul tavolo degli organi dei due patti ci sarà, mi sembra anche abbastanza ovvio, l'offerta appunto di scambio di Intesa su Ubi. Allora, prima di passare al prossimo argomento di approfondimento, vi avevo promesso che vi avrei raccontato qual è la grande sorpresa che sta preparando per voi Sebastiano Barisoni per la puntata di domani. Era il segreto di Pulcinella, perché vedo che già molti ascoltatori incredibilmente lo sapevano. Domani, a commentare la poco invidiabile classifica dei fatti e misfatti finanziari italiani, ci sarà con Sebastiano Antonio Albanese, quindi assolutamente una puntata da non perdere. E mi spiace che non potrò ascoltarla io perché sono altrove per lavoro. Allora, andiamo al tema che vi avevo preannunciato in apertura, che commenteremo a breve con un collega appunto del Sole 24 Ore. Oggi è stato approvato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, un piano appunto che parte da quest'anno e si protrae fino al 2022. È stato approvato questa mattina appunto dal Ministero, un piano frutto della collaborazione fra molte istituzioni a livello centrale, regionale e locale contro un fenomeno assolutamente deprecabile che riguarda ancora molte aree del nostro paese. Ma ci racconta tutto Giorgio De Lorefice, che saluto. Giorgio, buonasera, grazie buonasera, di essere con buonasera. Noi. Allora, peraltro grazie, vedo allegato a questo comunicato stampa con cui il Ministero del Lavoro ci ha aggiornato appunto su questa importante iniziativa, che c'è anche proprio una lista molto precisa di azioni prioritarie che dovranno essere perseguite in qualche modo proprio per raggiungere gli obiettivi di questo piano. Allora, quali sono, come mai diventa urgente in questo momento occuparsi di questo problema? Come mai il Ministero del Lavoro intraprende questa iniziativa, Giorgio? Ma in realtà non è un'iniziativa nuova, è un percorso che è cominciato già qualche tempo fa con il varo di una legge contro il caporalato da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Adesso il tema, poiché ovviamente è un tema un po' interministeriale, un po' trasversale, perché naturalmente non può tenere fuori il Ministero del Lavoro, ma trattandosi poi di una problematica che riguarda soprattutto i lavoratori immigrati, ovviamente c'è il coinvolgimento anche del Ministero degli Interni, una chiave importante del decreto flussi che si discute ogni anno. È chiaro che poi il tema è stato allargato anche ad altri rappresentanti sia delle parti sociali sia anche degli enti locali. Infatti c'è una partecipazione importante dell'ANCI, no? Che è l'associazione dei comuni, poi vedremo anche in particolare perché sono coinvolti. Comunque queste azioni prioritarie, come sono state definite dal Ministero, riguardano naturalmente innanzitutto il monitoraggio della manodopera in agricoltura, perché non si sa di quanti lavoratori c'è bisogno e in quali periodi dell'anno, perché abbiamo a che fare un settore che ha una stagionalità, no? Naturalmente non è che sempre lo stesso fa bisogno di manodopera in tutti i periodi dell'anno. Diventa difficile poi fare una programmazione e quindi prevenire il problema. Poi ritengo forse vada pure un attimo detto cosa si tratta il caporalato: è l'organizzazione praticamente della manodopera da parte di soggetti che si sono autoeletti sul territorio, intermediari, senza naturalmente tutto nella totale illegalità e nel sommerso, non nel nero. Certo. Noi tra l'altro sì, diciamo che conosciamo questo fenomeno, che spesso si presta ovviamente a tutto lo sdegno possibile ed immaginabile, ma forse certe dinamiche, anche proprio quelle più vergognose, non le conosciamo fino in fondo, quindi anche in termini di definizione forse spesso bene mettere proprio le parole nel contesto giusto, no Giorgio? Quindi spiegare bene effettivamente a quali livelli colpisce questa piaga. Noi parliamo spesso di persone di colore che raccolgono i pomodori nelle distese del meridione, ma poi c'è tutto il tema del trasporto di queste persone, dell'andarle a recuperare nei territori in cui abita. Esattamente, infatti per questo, tra queste azioni definite dal Ministero, io ne sottolineerei soprattutto due, che sono proprio quelle che riguardano il trasporto e e l'alloggio dei lavoratori, che sono proprio i due, sono il core business, diciamo, dei caporali, perché loro organizzano, cioè, raccolgono la manodopera dai centri abitati o dalle strade di maggior traffico e li portano sui campi dove c'è bisogno di manodopera. Allora, intervenire su questi due aspetti, cioè l'alloggio dei lavoratori e il trasporto, toglie ovviamente materia di lavoro ai caporali. Insomma, questo è uno degli aspetti chiave, e su questo è importante il coinvolgimento dell'ANCI, perché i comuni, soprattutto i piccoli comuni rurali, hanno necessità di ripopolare i piccoli centri, no, che sono a rischio spopolamento, e dall'altro i comuni dispongono anche di risorse finanziarie, spesso di fonte comunitaria, per poter diciamo, implementare un rafforzamento del sistema dei trasporti, per cui il loro coinvolgimento è duplice proprio su questi due aspetti chiave, diciamo, del problema. Certo. Quando partirà, a tuo avviso, e con che modalità, questa mappatura, Giorgio, dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola? La mappatura, che io sappia, comincia proprio subito, insomma, so che già è stata avviata. Poi, tra le altre azioni, diciamo, individuate al tavolo sul caporalato, c'è anche naturalmente tutto poi il potenziamento del lavoro legale, naturalmente, cioè, attraverso varie misure, sia attraverso il potenziamento e il rafforzamento di quella che è la rete del lavoro legale di qualità, che è stata istituita nel 2016, è in sostanza una specie di banca dati presso l'INPS, e che a tutt'oggi, dopo appunto quasi 4 anni di attività, conta appena 3.500 iscritti, 3.500 aziende, che sono pochissime, perché ricordo che le aziende agricole attive in Italia sono oltre 1 milione. Quindi, insomma, sicuramente un aspetto importante è il rafforzamento di questa rete che già esiste. Ma poi, come ribadito per esempio oggi anche dalla ministra delle politiche agricole Bellanova, è molto importante sensibilizzare poi i consumatori attraverso per esempio una certificazione dei prodotti, esatto, che sono stati realizzati con lavoro legale, insomma, no? Anche per distinguerli. E certo, e questo punto, esatto, questo punto, Giorgio, mi porta all'altro provvedimento che era arrivato nei giorni scorsi, il disegno di legge sui reati agroalimentari. Quindi, diciamo, c'è proprio un'azione complessiva a 360 gradi del governo, che ha l'obiettivo di dare questa, come tu stesso l'hai definita, spallata alle illegalità in agricoltura. Una terapia d'urto contro le illegalità in agricoltura. Sì, questo DDL sui reati agroalimentari, in realtà pure questo non è proprio nuovissimo, perché il tentativo era già stato fatto nella precedente legislatura, ma poi passò anche in Consiglio dei Ministri un disegno di legge che fu messo a punto attraverso un osservatorio agromafie, che è stato, diciamo, promosso dalla Coldiretti, che è presieduto dall'ex procuratore Giancarlo Caselli, che aveva messo a punto questo primo DDL, che però poi dopo se ne erano perse le tracce. Questo nuovo disegno di legge riprende in buona parte del lavoro fatto già tempo addietro, quindi sotto questo profilo, come è stato sottolineato dal Ministro della Giustizia Bonafede, una volta tanto c'è anche un po' delle cose positive, c'è, certo, un po' una continuità fra legislature e fra governi di colore diverso. Sì, esatto, non sono ministeri la cui azione viene, come dire, bloccata vicendevolmente, ma in questo caso si lavora in modo congiunto. Quali sono le condotte, nell'ambito di quanto prevede questa misura, le condotte fraudolente che verranno perseguite e con che sanzioni, Giorgio? Allora qui cioè, innanzitutto viene introdotto alcune figure proprio del tutto nuove, come il reato di agropirateria, che prima non era contemplato, e poi un altro aspetto importante è la tutela del patrimonio agroalimentare, che è un'altra figura che non esisteva. Infatti il decreto va a integrare in sostanza il codice penale e anche le altre leggi complementari sulla materia. Ma poi è importante anche perché, vabbè, i due principi chiave sono ovviamente la tutela del consumatore, e questa è scontata, ma anche la tutela dell'ordine economico, nel senso che vanno tutelate anche le imprese che operando nel legale subiscono la concorrenza sleale, certo, di quelle che invece non esatto, che regole, ovviamente, no? Che mettono sul mercato beni contraffatti, che non sono solo contraffatti, che possono pure essere dannosi per la salute e quindi insomma un pericolo più complessivo. Giorgio, io purtroppo devo salutarti, il tema è sicuramente molto interessante. Abbiamo un'altra iniziativa che ovviamente vuole tutelare i lavoratori di un certo settore, che spesso finiscono anche delle maglie della malavita, e conosciamo appunto queste derive di questo fenomeno, ma vuole tutelare anche tutto questo impianto messo in piedi nelle ultime ore, il nostro Made in Italy, quello che ovviamente dà lustro alla produzione italiana in tutto il mondo e quindi va sempre di più tutelato. Grazie a Giorgio Dell'Orefice per essere grazie stato con noi, buona serata, una velocissima pausa e torniamo subito insieme per gli ultimi minuti di Focus Economia, andremo a Bruxelles. Focus Economia. Sono iniziate a Bruxelles le trattative per deliberare il bilancio comune 2021-2027. Un'intesa che deve essere trovata, ma che non ha una strada facile, anche perché a mettere i bastoni fra le ruote negli ultimi periodi, come sapete, è stata anche Brexit, che toglie delle risorse che erano prima disponibili un po' per tutta la complessità di questi paesi, dei 27 dell'Unione Europea. Antonio Pollio Salimbeni da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Allora, trattative. Diceva stamattina il collega Beda Romano sul Sole 24 Ore, per condurre in porto una iniziativa di questo tipo le trattative sono sempre difficili, bisogna ovviamente mettere insieme molte esigenze politiche, economie che hanno bisogni ovviamente diversi, qualcuna molto ricca, qualcuna che ha naturalmente più bisogno, con l'obiettivo chiaramente di rendere omogeneo il quadro economico, ma è chiaramente un'operazione difficile. Quali sono le difficoltà con cui partono le trattative in questo momento particolare? Ma dunque, a questo punto sul tavolo c'è soltanto la proposta praticamente del presidente della UE Charles Michel e non più quella della Commissione Europea. In sostanza molti sono capi di Stato sono d'accordo sul fatto che qualche avanzamento c'è, ma ancora non ci siamo. L'hanno detto Macron, l'ha detto la cancelliera Merkel. Conte, per quanto riguarda le posizioni italiane, si sono presentati qui nel primo pomeriggio un po' a muso duro, come per loro è tradizione, i cosiddetti paesi frugali, vengono chiamati frugali, e sono Olanda, Danimarca, Svezia, Austria, perché vogliono un bilancio che sia al massimo pari all'1% del reddito lordo dei 27 stati membri. In sostanza si tratta di poco meno di 1.000 miliardi. Invece il Presidente del Consiglio Europeo ne propone un pochino più alto. Circa un centinaio di miliardi in più. Centinaio di miliardi in 7 anni per un'area economica che ha 550 milioni di abitanti, 450 milioni di consumatori, insomma. Non è granché. Certo. Sta di fatto che si tratta di trovare un equilibrio appunto tra interessi divergenti, tra i paesi ricchi, i paesi che non lo sono, fra paesi che sono più svantaggiati dalla transizione ecologica dell'economia e quelli che sono meno svantaggiati, tra est e ovest, tra frugali e invece gli amici della coesione territoriale, sociale ed economica, tra cui l'Italia. Quindi è molto complesso. L'Italia mantiene una posizione di critica generale sull'impostazione del bilancio, perché lo ritiene, come anche altri molti paesi, tra cui la Francia, poco ambiziosa rispetto alle stesse dichiarazioni politiche e strategiche dei capi di governo. D'altra parte però in realtà mantiene di fatto nel merito un profilo abbastanza basso, diciamo, dobbiamo dirlo, perché perde dei punti, qualcosa sulla PAC, la famosa politica agricola comune, ma guadagna qualche punto, lo guadagna sulla coesione territoriale. Quindi alla fine il bilancio per l'Italia, se queste sono le proposte sul tavolo, non è affatto negativo, tirando la linea naturalmente, con qualcosa che perde da una parte e qualcosa che guadagni dall'altro, certo, in una fase in cui il bilancio è ridotto per tutti. Ecco qui. Esatto. E poi, c'è anche da dire che il bilancio è ridotto per tutti, un po' anche per colpa appunto del Regno Unito che è uscito e che ha determinato questo ammanco di bilancio che va dai 60 ai 75 miliardi, ma è anche vero che poi viviamo una stagione di transizione economica che comporta che molti investimenti vadano su certi settori a discapito di altri più tradizionali che continuano ad aver bisogno di essere sostenuti, quindi bisogna veramente compendiare molte esigenze, Antonio. Sì, direi esatto, le cose sono assolutamente come tu le dici. Aggiungo per quanto riguarda l'Italia, che l'Italia guadagna dei punti, cioè qualche miliardo, in coesione, però perché alcune regioni del sud, alcune regioni italiane sono peggiorate, la loro condizione economica, sociale e civile è peggiorata. Quindi prendiamo in sostanza prendiamo dei soldi perché siamo più deboli di prima, non perché siamo bravi. E questo è il punto dell'Italia. Quindi a questo punto, allora, in genere raccontava Beda Romano sempre questa mattina sul Sole, ci vogliono ovviamente dei giorni per mettere nero su bianco le esigenze di tutti. Come procedono tecnicamente a questo punto le trattative? Dunque, tutte le delegazioni, compresa quella italiana, hanno prenotato l'albergo per questa sera. Qualcuno forse sono così complicate le trattative se la sbrigano subito in un giorno? No, in realtà si presume che sarà bisogno almeno di domani. In ogni caso c'è una finestra di opportunità perché è un weekend lungo, un fine settimana lungo, giovedì, venerdì, sabato e domenica. In teoria le agende sono abbastanza sgombre, quindi la cosa certa è che Merkel vuole cioè tutti vogliono un accordo il più presto possibile, in realtà. Diciamo questa è la giornata del massimalismo, non del compromesso, questo onore del massimalismo queste che stiamo vivendo. Merkel non vuole che il tema bilancio europeo sia trascinato durante la sua presidenza dell'Unione Europea, che comincia il 1 luglio. Tra l'altro poi fra 2 settimane scatta il vero negoziato post Brexit con i britannici, che è una bella gatta da pelare per tutti. Esatto, è la grande gatta da pelare di quest'anno, perché appunto, come sappiamo, è partito l'anno di transizione che comporterà per il Regno Unito ridefinire tutti i negoziati commerciali con tutte le altre economie, chissà con quali penalizzazioni o che vantaggi per chi. Antonio, grazie per essere stato con noi, ti lasciamo tornare appunto a monitorare un po' i percorsi seguiti oggi dalle delegazioni europee che cominciano questo negoziato che si preannuncia sicuramente complesso, ma insomma sappiamo che le dinamiche a Bruxelles non sono mai facili in nessun momento della storia. Per quello che riguarda Focus Economia, anche questa sera abbiamo terminato qua. Ricordo velocemente, in questi 10 secondi che mi prendo prima della chiusura, che Milano oggi ha terminato la sua seduta con un ribasso dell'1,5%. Sono le banche ancora che fanno molto parlare. Poi ci sono questi due flash degli ultimi minuti con Morelli, numero 1 di Monte dei Paschi, che lascerà la banca, non è disponibile ad un altro mandato, quindi il suo incarico termina il 6 aprile. Da quel giorno lui dice arrivederci, e poi forse se ne va anche Jean-Pierre Mustier, numero 1 di Unicredit, pronto a traslocare in un'altra grande banca internazionale. L'ultima notizia, domani c'è Antonio Albanese con Sebastiano Barisoni. Io ho terminato, grazie a tutti, buona serata.